piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Faccio soltanto una brevissima premessa e un richiamo e un ringraziamento ai tanti ascoltatori di Melog che stanno scrivendo compatti in questi giorni attraverso il sito di Radio 24 al nostro centro raccolta di oggetti che debbono raccontare una storia. Ricordo che l'indirizzo è asta.cervelliribelli.it, ma ci arrivate anche dal sito di Radio 24. E qui gli ascoltatori stanno mandando dei fantastici oggetti ribelli, degli oggetti fuori dall'ordinario, cose che hanno in casa, desiderosi, primo, che io racconti la storia di questi oggetti, cosa che farò dalla prossima settimana in maniera capillare. Ho degli oggetti fantastici, delle storie che mi tremano i polsi soltanto a raccontare. Altri invece hanno proprio l'ambizione di mettere questi oggetti all'asta. Li metteranno all'asta, nell'asta degli oggetti ribelli che avverrà i primi di aprile a Milano presso la casa d'aste Cambi, ma nel frattempo noi vi daremo modo di conoscere da qui a aprile quelli che sono gli oggetti fuori dall'ordinario che hanno gli ascoltatori medi di Melog dentro casa. Quindi mi raccomando, continuate a mandarli, la prossima settimana avrete modo di sentire delle storie fantastiche, semplicemente da oggetti che erano chiusi dentro delle case. E ora passiamo all'argomento del giorno. Manca poco per l'inizio del Festival di Sanremo. Martedì si apre il sipario del Teatro Ariston e in conferenza stampa Amadeus ha presentato la 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Io ho parlato sempre io in questi mesi di un Sanremo imprevedibile. Il direttore appunto ha citato Rosario Fiorello. Io realmente non so cosa farà in queste sere, ma mi piace questo, cioè non lo voglio sapere. Ho l'imprevedibilità anche di un grande cantante come Tiziano Ferro, che al di là delle canzoni ci saranno anche delle emozioni che evidentemente andremo a scoprire insieme, e lui ci ha abituati a questo, oppure la grande performance di Roberto Benigni. Sono tutte cose che renderanno questo festival a mio avviso piacevolmente imprevedibile. Oggi voglio sottoporre il nostro pubblico a un quesito che noi come al solito articoleremo attraverso un sondaggio. Rendetevi conto che la televisione pubblica da giorni e giorni sta celebrando il fatto che Sanremo compie 70 anni. In realtà i Sanremo passati sono stati 69, ma è un numero che probabilmente tremebondi non osano pronunciare, quindi si parla, abbiamo avuto 70 Sanremi, no, il 70esimo sarà questo. Ma la cosa che mi diverte e mi stupisce, questo 2020, questa entrata nei ruggenti anni 20 del millennio 2000, non è proprio stata un'entrata tranquilla. Ultimo, coronavirus, rendete conto, stiamo parlando di qualcosa che terrorizza le persone, i cinesi vengono tenuti a distanza, si vede la costruzione notturna di grandi lazzaretti, chiamateli come volete, stanno facendo l'ospedale in una notte, no, fanno un lazzaretto, non è un ospedale, è un posto dove vengono messe le persone perché hanno paura. Crisi politica, figuriamoci, terribile, anche le sardine che sembrava l'unica certezza nel nostro paese, si parla di scissione delle sardine, figuriamoci, tagliata a metà le sardine, il caos totale. Crisi economica non se ne parla più, sembra che improvvisamente siano tornati tutti ricchi. Insomma, di problemini ce ne sarebbero da parlare. L'immigrazione, come gli immigrati che arrivano con i barconi a invaderci, non se ne parla più. La difesa, la pistola sul comodino, tutti abbiamo bisogno di avere il cannone vicino perché siamo aggrediti nelle nostre case, non se ne parla più. Si parla soprattutto di una cosa che è il Festival di Sanremo. Ecco, io mi domando perché ancora un paese così complesso, così articolato, così spinto verso l'innovazione, questa grande narrazione della precaria che ha isolato il coronavirus, è vero, non è vero, è una fanta narrazione, è una verità, è un problema che emerge, precari che non vengono tutti in considerazione, non importa nulla. In realtà è importante capire se Tiziano Ferro sarà a Sanremo, se Fiorello ci sarà, cosa farà Fiorello, Benigni c'è o non c'è Benigni, cosa può far di nuovo ancora Benigni, cosa altro può raccontare Benigni nuovo, eppure Benigni è oggetto di discussione. Poi soprattutto ancora c'è chi si pronuncia sulla frase maschilista di Amadeus, l'ha citata anche la Boschi l'altro giorno, ospite di Giletti, cioè, capito? La Boschi da Giletti dice ha sbagliato Amadeus a dire delle donne con la cosa lì, che la fidanzata di Valentino Rossi fa un passo indietro quando lui passa a 300 all'ora sulla pista, ecco, mi sembra la cosa più normale del mondo. Detto questo, perché Sanremo copre tutto, come se fosse un magma rituale che una volta l'anno deve comunque calamitare, nel bene o nel male, per opposizione o per affratellamento, tutti gli italiani? Beh, su questo oggi vorrei interrogarvi. 800 24 00 24. Non c'è coronavirus, non c'è crisi economica o politica che tenga. Oggi l'Italia intera è in trepidante attesa per la prima serata del Festival di Sanremo. Una messa cantata che sostanzialmente è la stessa da 70 anni. Ma noi non vogliamo passare per snob. Se piace così tanto, ci sarà un motivo. Vogliamo però capire perché questo evento sia così centrale da catalizzare l'attenzione di tutta Italia, o quasi. Oggi proponiamo un sondaggio a cui vi chiediamo di partecipare tutti, appassionati e non. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci in quale di queste tre categorie di telespettatori vi riconoscete di più. 1. Fideisti sanremisti. Basta con questa puzza sotto il naso. Sanremo fa parte della tradizione italiana, come la pizza e le partite della nazionale di calcio. Chi vuole se lo gode davanti alla TV, gli altri si facciano una passeggiata. 2. Trashisti divertiti. Sanremo si vede per riderne insieme agli amici, commentare gli outfit dei protagonisti, le stecche dei concorrenti, le inevitabili polemiche, insomma, per poter spettegolare sullo show in condivisione ironica con gli altri. 3. Radical antinazional populisti. Sanremo, come tutta la TV generalista, è un fenomeno sottoculturale, vecchio e superato, che va ignorato passando una serata nei cinema vuoti o leggendo un buon libro. 800 24 00 24. Denuncio subito la nostra partecipazione a Sanremo. C'è Marta Cagnola, se la sta scaldando già lì a Sanremo. Domani sarà la nostra inviata speciale, ci racconterà tutto quello che gli altri non sanno, di dietro le quinte, di pettegolezze, di storie, di valutazioni reali e concrete. Marta è da anni un'inviata speciale a Sanremo, conosce tutto del mondo della canzone, del mondo dei cantanti. C'è questa tradizione che noi una volta l'anno ci colleghiamo con lei e ci dà in anteprima quelli che è il suo prezioso punto di vista. L'anno scorso ottenemmo Bocelli, che ci chiamò arrabbiatissimo perché irridemmo il fatto che c'era il figlio sul palco. Quest'anno chissà chi si incazzerà con noi. Detto questo, io ripeto quali sono i punti. Vi pregherei di chiamare perché è importante. Ci domandiamo perché veramente questa sorta di liturgia annuale ancora, in ogni maniera, in ogni modo, in maniera anche sottilmente melifua, prenda tutti noi italiani. Io stesso ne sto parlando, guardate, io parlo di televisione da almeno 30 anni alla radio, quindi l'ho fatto per tanto tempo, sono stato anch'io a Sanremo, ho partecipato al dopo festival di Sanremo, mi è nato il figlio Tommy proprio quella sera, come fosse una sorta di segnale divino del fatto che era meglio che stessi a casa. Detto questo, senza rinnegare comunque il piacere di averlo avuto, detto questo, comunque sta di fatto che quello che mi sarebbe servirebbe sapere innanzitutto, voi mi diceste cosa fate stasera, che farete questa sera, mi dite cosa fate, come organizzate la vostra serata. La prima serata non è la più importante, è l'ultima la più importante, quella che si fanno le pizzate con gli amici, si invitano le persone a casa, si fa il tifo, però anche questa sera qualcuno comunque darà un senso al fatto che inizia Sanremo, non si può fare a meno di ignorarlo. Anche il peggior mangiapreti, lato più alto, quando sente le campane che suonano la notte di Natale, contento, in fondo tutto sommato è contaminato da quella cosa, quindi voi ne siete contaminati. Riferisco e riassumo le tre posizioni che noi abbiamo pensato possibilmente rappresentanti di quello che è l'atteggiamento e il modo di passare la serata degli italiani. I fedeisti sanremisti sono quelli che non si pongono problemi, lo guardano perché a loro piace, sono appassionati, ricordano le canzoni, gli piace l'idea che ci sia un festival della canzone italiana, hanno seguito passo per passo tutti i giornali, tutte le polemiche, lo seguono, come si prendono il minestrone Sanremo con tutte le verdurine dentro, anche con la cipolla tritata. Trashisti divertiti, questo è già un passo avanti, è un salto mortale. Sono quelli che guardano Sanremo per poi fare messaggini cattivelli su Twitter e twittare: visto come ha vestito quello, quell'altro sembra una meringa, quell'altro è abbronzato con la lampada, guarda che cazzata ha detto questo. Lo guardano comunque, guardate, Sanremo vi abbraccia comunque, è un santo che comunque vi tiene sotto la sua cappella anche se voi lo ridete, quindi siete comunque figli di Sanremo, anche nella modalità social. La terza categoria sono quelli che prendono proprio le distanze, sono quelli che dal loro terrazzino che vedono il cupolone di San Pietro o l'altare della patria o i posti più belli di Milano o come di Venezia, come di altri posti, dicono: ma siamo matti, noi la televisione a casa non ce l'abbiamo, non guardiamo televisione, che cosa banale, che cosa bassamente popolare, bisogna educare le masse a non seguire questi spettacoli abietti, è sottocultura che va superata. Quindi leggiamo un buon libro, andiamo a vedere un bel film d'essè, andiamo a teatro, conversiamo con gli amici con una buona bottiglia. Chissà perché poi questi hanno sempre una buona bottiglia, uno si beve la bottiglia che c'è a casa, loro hanno sempre buone bottiglie. Quindi 800 24 00 24, cerchiamo di capire esattamente qual è il vostro atteggiamento. Al momento non chiama nessuno, continua a parlare, benissimo. Allora, Sanremo ha alcune costanti che danno probabilmente forza alla sua esistenza. La prima costante è la scelta del conduttore, che comincia a prevenire il festival di alcuni mesi. Sulla scelta del conduttore naturalmente si crea, si amplifica e si modula quelli che sono gli elementi di dissidenza e gli elementi, diciamo, che in qualche maniera fortificano e giustificano questa scelta. Secondo punto è la parte femminile di Sanremo. Nelle prime edizioni, diciamo i primi 50 anni, 60 anni di Sanremo, era semplicemente la scelta delle vallette, erano le vallette di Sanremo. Donne silenziose, carine, sorridenti, non devono fare altro che fare da ancelle del grande conduttore. Poi c'è stato il cambio di ottica culturale, la presenza femminile di Sanremo è una presenza a dare un senso di partecipazione e di gratificazione, emancipazione del lato femminile, e lì è cominciato veramente il casino. Alberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io purtroppo ho acceso la radio da poco, appena ho sentito che parlavate di Sanremo ho chiamato, ma io non so qual è il sondaggio. Facciamo così, Alberto, io la colloco nella parte del sondaggio che lei secondo me rappresenta, se lei mi dice esattamente cosa fa stasera e qual è il motivo per cui stasera nel caso guarda Sanremo. Perfetto, allora io stasera sarò in prima linea davanti al televisore perché ci sarà la reunion dei ricchi e poveri in quattro. Io sono un musicista, mi occupo di musica vocale e da bambino il mio amore per la polifonia vocale è nato proprio con i ricchi e poveri. Io li ascoltavo a bocca aperta, con la pelle d'oca, li ho anche visti in concerto, in quattro però. Dopo, quando sono diventati in tre, hanno fatto musica più commerciale, assolutamente legittima, però... Allora, lei sicuramente, Alberto, fa parte della prima categoria del nostro sondaggio, fideista sanremista. Lei è stato preso, ma non lo dico in senso negativo, ha boccato uno degli ami importanti di Sanremo, che è la nostalgia. Rimettere insieme ricchi e poveri è un'operazione alchemica terribile, ma funziona. Albano e Romina quanto ci hanno rimangiato sopra al fatto che sono tornati insieme a cantare, figuriamoci. Ecco, ci tengo a dire che mi aspetto una delusione, perché sicuramente il ricordo che ho dei ricchi e poveri non sarà quello che sentirò stasera. Oddio, la speranza è l'ultima a morire, però spero, diciamo, proprio... che la reunion è una delle maniere che i vecchi gruppi, ormai in disfacimento, in abbandono, usciti un pochino dalla centralità, hanno modo di avere come un'iniezione di formaldeide in un cadavere, ritornano improvvisamente tutti belli vispi e sembrano come nuovi, quindi tutto sommato vederli assieme è già una macchina del tempo, vederli riuniti finalmente. Battista, buongiorno. Buongiorno. Che parte sta lei di questo sondaggio? Ma da quale parte? Guarda, intanto consideriamo un particolare che io sono nato, quando ero piccolino, sono quasi nato con Sanremo. E quindi lei ha 70 anni, a 70 anni vorrebbe dire? No, 60, qualcuno in meno, 66. Si è perso i primi 4 anni, ma non è granché. Il punto di base qual è? Insomma, la bellezza non si può cambiare, uno è bello o è bello. La purezza della musica è pura, non c'è un aggettivo che possa contrastare la purezza della musica. Ma tutto questo che ha a che fare con Sanremo? tutto questo che ha detto che lei. Che cosa c'è che fare? Perché io abolirei, per quello che chiaramente è stata, per quella che è stata la scelta, secondo me, scelerata del conduttore, abolirei proprio in maniera assoluta tutti coloro che propinano attraverso la nobiltà della musica. Guardi, devo dare la linea, le faccia capire. Lei, io pensavo che fosse un fedeista sanremista, in realtà è un oppositore totale a Sanremo. Assolutamente no, perché non si può accendere il TV e vedere il Sanremo che è stato impostato a livello nobile del bel canto nel mondo e poi vedere scelerati che attraverso la musica ostentano violenze di tutti i tipi. Sì, però aspetti, Battista, non è più giusto che lei se lo veda prima e poi lo dica dopo, perché non sappiamo quello che succede. È chiaro, ci sarà qualche rapper probabilmente che farà testi un po' potenti, ma fa parte della contemporaneità, è un genere che funziona, quindi forse sarebbe il caso che lei se lo vedesse, poi magari questa sua delusione la esprime dopo. Comunque è non classificato, perché lei da un certo punto ama la musica, quindi sarebbe un sanremista, ma in realtà richiede una purezza da Grazie dei Fior di Sanremo che oggi non ritrova più, quindi è deluso. Ci fermiamo un istante. Melog. A Sanremo tutti conoscono le canzoni. Dai, 3, 2, 1. Penso che un giorno così non ritorni mai più. Chi non lavora non fa l'amore. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci in quale di queste tre categorie di telespettatori vi riconoscete di più. 1. Fideisti sanremisti. Basta con questa puzza sotto il naso. Sanremo fa parte della tradizione italiana, come la pizza e le partite della nazionale di calcio. Chi vuole se lo gode davanti alla TV. Gli altri si facciano una passeggiata. 2. Trashisti divertiti. Sanremo si vede per riderne insieme agli amici, commentare gli outfit dei protagonisti, le stecche dei concorrenti, le inevitabili polemiche, insomma, per poter spettegolare sullo show in condivisione ironica con gli altri. 3. Radical antinazional populisti. Sanremo, come tutta la TV generalista, è un fenomeno sottoculturale, vecchio e superato, che va ignorato passando una serata nei cinema vuoti o leggendo un buon libro. 800 24 00 24, devo darvi una rapida sintesi di quello che i nostri sondaggisti stanno osservando. È come quando qualcuno fa delle inchieste sulla televisione. Cosa guarda in televisione? Quei bei documentari, i programmi di Piero Angela. Poi non è affatto vero, poi magari guardano le peggiori cialtronate, perché da gusto io guardo Malattie imbarazzanti, è uno dei programmi che più mi piace, vedere Malattie imbarazzanti. Non lo guardo Malattie imbarazzanti, mi guardo quello sugli accumulatori compulsivi, capito? Quelle sono cose bellissime. Però naturalmente voglio fare l'intellettuale, dico, Dio mio, che cosa terribile Sanremo. Ecco, l'atteggiamento generale è di disprezzo verso il festival popolare, quando comunque sia, ne siamo tutti ugualmente contaminati. Le canzoni di Sanremo, gli eventi di Sanremo, comunque entrano a far parte delle nostre mutazioni genetiche. Esiste una possibilità che alla fine, spontaneamente, come accadeva alla paziente del professor Oliver Sacks, che a un certo punto si ricordava tutte le canzoni della sua fanciullezza, da qualche parte abbiamo registrato tutto quello che accade a Sanremo e quindi ci riviene fuori negli atteggiamenti, nei modi d'essere, ma anche nelle nostre avversioni. Quindi è inutile che resistiamo. Domani vi daremo prova, perché domani dovrete raccontarci il vostro giudizio su Sanremo. Domani, assieme a Marta Cagnola, parleremo della prima puntata, celebreremo anche noi la grande messa cantata di Sanremo, faremo parte della liturgia, come nella processione del Santo Patrono ci sono tutti, anche le persone più abbiette del centro, del paese, della cittadina che porta in giro il Santo Patrono. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei ha massima stima e simpatia nei suoi confronti, davvero. Grazie. Non è obbligatorio, può partecipare lo stesso. No, ma non gliel'avrei detto, ma lo provo davvero. Grazie, fa piacere. Tutto. Dopo tanti calci nel culo, qualcuno che ti dice così mi fa piacere. Beh, avanti allora, Gabriele, che parte sta lei? Io mi parlo del nella terza categoria, però è un radical nazionalpopulista. Ecco, no, lei no, non è proprio così. È tutto cominciato un bel po' di anni fa. È un gioco. Io non voglio sapere niente, ma non ho niente, non l'ho neanche mai visto, se non da ragazzo. È di non vedere, cercare di vedere il meno possibile di Sanremo. Però si rende conto, Gabriele, non vuole sapere niente, sta partecipando a un programma radiofonico su Sanremo. Quindi ne è già contaminato, il virus di Sanremo già l'ha contagiata. Ma certo, ma io nel non voler vedere niente, anche gli spezzoni dei vari GR o TG dedicati a questo, io spengo. Ma è chiaro che mi sono conscio che mi faccio... Vuol dire che per una settimana fa prima staccare la corrente da casa e accendere la candela, perché ne parleranno tutti. Ma certo, ma io non sono mica contro, a me mi diverte, è un gioco quello di cercare di sapere il meno possibile. Vabbè, Gabriele, c'è gente si diverte a farsi ammanettare al termosifone e lasciare lì, lei non si può divertire a dire chiudo ogni comunicazione verso Sanremo, è il suo gioco, mi fa piacere. Simone! Sì, buongiorno. A quale gruppo appartiene? Allora, io ho lo stesso del precedente ascoltatore. È un radicale antinazional populista. Sì, diciamo che mi ricordo. Cerchi di argomentare la sua posizione. Qual è il motivo di avversione? Pensa che faccia male alla salute? Qual è il problema? Motivo innanzitutto artistico, perché io ho 42 anni, ho vissuto i festival di Sanremo negli anni 80 con i nonni, con parenti, eccetera, quando ancora la società era... dal mio punto di vista, modestamente parlando, una società ancora abbastanza garantita. Quindi lei, diciamo, è una nostalgia passatista. In realtà ora parlo da padre. Le piace il vecchio mondo antico, quindi è legato alla nostalgia di quello che rappresentava Sanremo allora. Ma in linea di massima sì, infatti comunque non mi tiro fuori e infatti sono... Ma qual è stato lo spartiacque che in presente è cambiato tutto, il mondo è tracollato e siamo entrati nel Kali Yuga di Sanremo? La farfalla di Belen, cos'è stato il momento in cui ha detto no, il mondo è finito? Guardi, purtroppo in due parole, parlando di Sanremo, nello specifico... Un tema. Internet e il fatto di tenere internet aperto ai minori di 18 anni. Ah, beh, allora Simone, lei fa parte, diciamo, dell'umanità passatista. Leo è un reazionario che vorrebbe che il mondo tornasse indietro. Non dico che sia una posizione criticabile, per me il pensiero reazionario è espresso pensatori, scrittori e poeti, però e questo è. Giulia, buongiorno. Buongiorno. A quale gruppo appartiene? Al terzo anche io. Ma tu tutti radical chic. Argomenti perché... Allora, perché... Ma lei che fa stasera invece di guardare Sanremo? Cosa fa? Io stasera vado a mangiare fuori col mio moroso che finalmente è a casa, quindi... Perché dov'era prima? L'avevano arrestato, no, che era successo? No, fa dei tour un po' strani, quindi difficilmente riusciamo a mangiare insieme a cena, ecco. Quindi questa sera al moroso a disposizione a mangiare fuori. Ma lei sa che nel ristorante ci sarà il televisore acceso con Sanremo? Oh, spero di no, è vero, ne cercherò uno senza televisore. Da andare in un ristorante cinese, forse, quella è l'unica maniera. Giusto. No, comunque, trova anche io posto. Io sono contro per un motivo ben preciso, perché essendo musicista non posso che non guardare il festival, perché so che i musicisti che sono lì sono pagati niente e quindi io non posso guardare. Ah, diciamo, la sua è una proprio protesta, diciamo, di tipo sindacale. Lei come musicista, come pagati niente? Con lì pagati niente, chi va a Sanremo? Allora, sono pagati per le quattro serate 50 euro al giorno. Ma quali musicisti? Quelli dell'orchestra? Quelli dell'orchestra. Ma guardi, l'orchestra mi sembra un po' singolare, sinceramente. No, lo so. Anzi, io ho proprio degli amici che erano stati chiamati per andare a partecipare, a suonare al festival, addirittura gratuitamente, dicendo, beh, ma così avete visibilità, ma che visibilità? Non c'è budget, ma guardi, Giulia, io non posso avvallare quello che dice lei, che non ho, mi sembra un po' singolare, perché chi organizza Sanremo deve stare comunque in tutte delle regole, un musicista 50 euro a serata, può essere che sia quello il cachet, non lo so, c'è gente che scrive articoli di giornale per 20 euro, sono professionisti che hanno una vita alle spalle di professione, quindi tutto può essere, capito? È un momento difficile, però lei comunque prende le posizioni per una rivendicazione pressione sindacale nei confronti dei musicisti, secondo lei non giustamente pagati, non guarda Sanremo, almeno motiva la sua astensione. Marco, il suo è uno sciopero però, non è una scelta culturale. Marco. Sì, ciao Gianluca. Ascolto. Chiamo da Ovindoli, io ti seguo da anni. Ovindoli. Le tre rocche, ci siamo visti qualche volta a Rocca di Cambio. Adesso devi spiegare le mie transumanze, potrei andare a fare cose non dicibili alla radio. Rocca di Cambio, Bene. Allora, guarda, non so se la terza categoria va bene, perché a me non è che me ne freghi molto, cioè io non mi vedo Sanremo semplicemente perché è noioso. Basta, c'è mia moglie e mia figlia che non vedono l'ora di schiaffarsi lì davanti al televisore. Io non lo preferisco guardare Rete 4, un film di Bud Spencer e Terence. Certo, vuole mettere Rete 4 ultimamente con la presenza di Mario Giordano è imperdibile. Io Giordano mi perdo una puntata, non trovo uno spettacolo più divertente, più esaltante, più innovativo di vedere Giordano, questo è chiaro. Però non vado nemmeno a criticare chi lo vuole vedere, se lo veda. Vabbè, lei è una posizione molto filosofica, dice. Semplicemente molto, molto noioso. Certo, diciamo... ma noioso da quando c'era Pippo Paolo, che io lo conosco da qualche volta l'ho sentito. Sì, in effetti io devo avere sincera verità, io dopo un po' mi annoio, ma perché ho il mio problema proprio verso la musica, non ascolto musica. È come le persone, è come fosse mi mancasse un senso, e mi manca. Ma lì mi annoio veramente, perché potrei vedere gli intermezzi, potrei vedere, non vedo l'ora di vedere la Gebral che farà il suo pistolotto politicamente corretto, visto che prima era stato impedito, poi era stata censurata, poi non era vero, stasera ci darà questa bella minestrina sul fatto che dobbiamo essere buoni, aperti e guardare anche agli altri, ma lo guardo come fatto di interesse giornalistico, perché capisco poi le ripercussioni sulla società, le derive per cui avvengono certi episodi, però anche io mi rompo le palle in maniera esagerata a guardare Sanremo. Fermiamoci un attimo, pigliamo fra un minuto, fra un secondo, che un minuto, pochi istanti. Melog 800240024, sto osservando una singolare quanto preoccupante deriva fra il nostro pubblico. Oggi tutti sono buoni, tutti dicono non guardano Sanremo, faranno attività più culturalmente gratificanti. Io insisto nel dire, essendo anch'io profondamente, evidentemente, dell'intimità radical chic, ma sono anche una persona rozza e amante delle sconcezze, quindi comunque me lo guardo, sennò domani di cosa parlo? Non permetterò mai di non avere argomenti di fronte a Marta Cagnola che saprà tutto, quindi dovrò guardare Sanremo questa sera. Quando ci saranno le canzoni mi alzerò, andrò a farmi un panino, farò una passeggiata per sentir cantare, proprio veramente non lo sopporto. Luciano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, complimenti, è l'unica trasmissione radio che io seguo. No, non dica questo. Anche perché sono un radical chic, comunista con Rolex, iscritto al Cineforum, vedo una mostra a settimana, però sono Sanremo fidelistico, si può essere tutti e due. Ah no, bellissimo, no, finalmente una persona che riassume in sé le due nature, è una vita che lo vado anche a cercare. Anche perché sono venute le cose migliori da Sanremo. È un rebis esistenziale, in sé le due nature, quindi è radical chic con il Rolex, certo. Va nelle terrazze, va ai Cineforum, si prende la buona bottiglia la sera sulla terrazza, veste soltanto cose naturali, le sue donne si lavano poco ma hanno delle bellissime gonne folk e via dicendo, però si mettono delle cremine naturali fatte belle, però lei guarda anche Sanremo. No, Sanremo è fondamentale perché le cose migliori sono venute da lì, pensiamo alle poesie di Tenco, ai migliori cantanti. Sì, ma infatti si è sparato Tenco, infatti ha avuto qualche problema. Però ci ha lasciato, però valeva la pena di averlo sentito. Ma poverino, potevamo far meno di sottoporlo a questa sorta di ordalia per cui alla fine non ce l'ha fatta più, hanno preferito Rietta Berti a me e si è sparato. Ma Sanremo frantuma tutti, ha frantumato i politici, frantuma i comici. Mi faccio un esempio di un altro frantumato la Sanremo, che non me ne ricordo tanti, io trovo tutti abbastanza... La Sanremo, c'è stato Siani che ha dato una battuta politicamente scorretta, che è stato massacrato ormai dalla sinergia internet, Twitter... Cosa aveva detto? Sai che non mi ricordo, che aveva detto Siani? Sì, lui c'era un ragazzino grasso e diceva ma tu cosa fai, applaudi per due, una cosa del genere. Ah, una battuta su... E Siani sono molto di moda, sì. In diretta perché c'è stata proprio la tempesta mediatica dei tweet. Ciccio Bomba Moschettiere è diventata una frase in cui... Tutti erano ex ciccioni, questa cosa mi sembra strana. Tutte gente che sono dei figurini che fanno invidia. Mo tutti ex ciccione, adesso dico anche io, ero ciccione anch'io, mi hanno preso in giro tutta la vita che ero ciccione. Adesso è cambiato il canone, per cui vanno bene, vanno bene le culone, per cui l'unica cosa oddio, che manca. Posso dire una cosa? Adesso, dirò una cosa politicamente scorretta. C'era un detto dalle mie parti, donna senza culo, alpino senza mulo, quindi assolvo anche questa cosa qua. Io ho fatto battaglie per i tre palmi a questa trasmissione, quando ancora diciamo il politicamente scorretto radiofonico era ben lungi. Feci battaglie per i tre palmi, gratificando e glorificando le donne, mi davano prova di avere tre palmi di opimi fianchi, quindi si figuri, sfonda porte aperte. Comunque, grazie Luciano, mi ha confortato sapere che nella scelleratezza ho compagni. Tiziana, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, sì. Allora io sono una di quelle che non solo non guarda Sanremo, guarda pochissima televisione. Sì. E Sanremo non lo guardo più. Perché non guarda la televisione, Tiziana? Allora, perché un po' poco tempo. E come impiega il suo tempo? Ma la sera cosa fa? La sera spesso sono con amici e quando sono in casa guardo dei programmi che mi interessano, sono un po' selettiva. Nel tipo Piero Angela, quei bei documentari? No, io guardo Porro, guardo Del Debbio, guardo la Palombelli, guardo... Cioè guarda solo Rete 4, Rete 4? Sì, quasi. Ma la sua è una scelta politica o una scelta estetica? No, è una scelta proprio di interesse del programma, diciamo, di questo tipo. Sono quelli di che veramente dicono le cose come stanno, senza filtri. Insomma, diciamo che secondo me sì, poi è la mia opinione. Cioè, gli italiani si sentono veramente rappresentati comunque da Porro, Del Debbio, Giordano. Sicuramente sono persone di buon senso, oltre che di cultura intelligente. Cultura smisurata. Direi ecco notevole e quindi quel poco che la guardo la televisione certamente non guardo Sanremo perché come diceva giustamente l'ascoltatore prima è molto noioso specialmente negli ultimi anni e poi perché io sono come diceva lei sottolineavo una nostalgica di quello che è stato il Sanremo dei bei tempi cioè con della musica veramente valida credo che la qualità della musica sia scaduta enormemente io non mi ci riconosco più non mi trasmette più niente questa musica. Mi dica una canzone che ancora la fa vibrare di piacere del vecchio Sanremo. Ma senta, una per tutte. Quelle di Vecchioni tutte una per l'altra perché io adoro Vecchioni ma per non dire di Patti Pravo, di Zucchero, se vogliamo andare ancora più indietro, quelle dei Pooh, Battisti. Beh, ci sarà questa sera, diciamo, ritornano insieme ricchi e poveri, è un momento che non si può perdere. Diciamo che può andare, però insomma non sono tra i miei preferiti. Però Tiziana, ecco. ho capito che c'è un forte culto, quasi un feticismo della nostalgia, del tempo forse che fu. Io sono più anziano di lei sicuramente, Tiziana, ho 65 anni, lei sarà molto più giovane. Io ne ho 62, quindi non è che allora siamo tanto lontani. Allora è comprensibile la sua affezione per alcuni programmi molto legati, diciamo, al culto del passato, del tempo che fu, delle vecchie antiche cose, delle tincaglierie del salottino della nonna. Va bene, ma Tiziana, io ammetto tutto e guardo tutto con grande interesse e curiosità e non giudico nessuno, quindi mi sta bene. Tiziano, questa volta, il Tiziano. Sì, buongiorno. Sì. Io il giorno del Festival di Sanremo, cioè a me piace molto sentir cantare e guardo volentieri tutti i programmi di quindi canzoni. È un fideista sanremista, lei... Vorrei esserlo, però negli ultimi anni mi ha deluso talmente la pubblicità che travolge il festival, la quantità di soldi spesi del nostro canone per fare un festival in cui c'è una pubblicità proprio, cioè ogni due canzoni Paolo, se c'è pubblicità sono soldi che entrano al servizio pubblico e essere contento. Vabbè, noi paghiamo il canone anche per avere una vexata questio che va avanti da 20 anni. In realtà il canone può essere pagato per altre cose che non sono appunto il Festival di Sanremo o i telequiz, ma questa è una questione che è risolvibile come il sesso degli angeli. Ne può parlare quanto vuole, ma nessuno potrà portare prove certe della soluzione di questo dilemma. Paolo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, a me piace, mi metto nel primo gruppo perché ormai sembra che bisogna vergognarsi a dirlo. Ma figuriamoci. No, mi piace proprio anche, più che perché le canzoni sì ce ne sono belle, anche meno belle, ma anche tutto il contorno, a me piace vedere tutto, i conduttori, l'imbarazzo che hanno, quando alla prima serata che sembrano irrigiditi, sembrano di marmo, che non sanno come muoversi e hanno sempre paura. Quindi a lei piace quel fenomeno di conduttore che lentamente si scalda, e la fase erettiva del conduttore di Sanremo che arriva all'apoteosi il sabato sera per lei è motivo di gioia. Perfetto, benissimo. Claudio, buongiorno. Claudio, buongiorno. Sì, l'ascolto. Niente, io dicevo al suo collega che praticamente non riesco a sentire più di due canzoni di seguito, quindi io inizio a vedere la trasmissione, però poi dopo devo per forza girare, perché non... Cioè rischia l'abbiocco verso le 22, ecco, una cosa del genere. No, io in effetti io mangio a quell'ora lì, però mangiando mia moglie vuole vedere la trasmissione. Certo, non ti aspetto che lei si addormenti, di solito dopo la seconda si addormenta. Sua moglie quando comincia a russare? Verso le 22, 22:30? Noi mangiamo intorno alle 10, sì. Quindi lei poi alle 22:30 sì, in effetti comincia a far fugliare sul divano frasi sconnesse. E allora io poi giro con gira. Vedo tutti. L'unica cosa che poi è successo l'anno scorso, che mi ha chiesto alla fine chi aveva vinto. Vabbè, quello guarda un attimo su internet, fa presto. Ma io per scherzo gli ho detto che aveva vinto un altro, così la mattina dopo quando è andato a prendere il pane ha fatto una figura. L'ha presa tutto in giro. Beh, bellissimo scherzo, queste sono quelle cose che rafforzano il rapporto coniugale. Continui così, si trova finalmente solo e felice. Monica. Buongiorno. Lei allora a quale categoria appartiene? Io alla prima, quella dei fedelissimi. Fedelissimi. Devo dire, Monica, sì, che il pubblico si divide in maniera manichea e assolutamente binaria. O appassionatissimi o odiatori. Nessuno ha chiamato di quelli che ci giochicchiano con Sanremo. Lei allora dia dei motivi per cui lei è appassionata. Perché negli ultimi anni ho notato, a differenza di qualcuno... Sì, tutti dicono che è degenerato. No, io credo che si sia anche un pochino migliorato. Scondizioni è accaduto che la presentazione delle canzoni avvenisse subito, cioè non c'è più, non ci dobbiamo più sciroppare quella mezz'ora di convenevoli che invece aspetti. Le tocca la Gebral, le tocca Benigni, le tocca Fiorea, voglia, ce vedremo, ne saranno dei monologhi. Io mi ricordo che con Baglioni, che a me è piaciuto molto, c'è stata subito la presentazione delle canzoni. Sì, Baglioni ha fatto un bel festival, devo ammettere, è piaciuto, sì, anche a me. Sì. Io essendo curiosa mi piace ascoltare le canzoni nuove, trovo che ci sia sempre comunque Monica appassionata. Oh, finalmente, Gabriella, lei è l'unica, è una rara persona che appartiene alla seconda categoria? Sì, parla con me, sì, sono, sì, io. Trescista, esatto. Divertita. Allora, come articola le sue serate di... No, le mie serate, a me devo dire la verità, mi piacciono molto i film. Non amo assolutamente le chiacchierate politiche perché le, sì, trovo... Sì, ma parliamo di Sanremo adesso, cosa farà per Sanremo? Allora, Sanremo mi succede che magari comincio a vedere, ma io... lei ha detto una cosa di cui mi vergognavo di dire io, nel senso che la musica per me è come se mi mancasse un senso. No, ecco. Un senso spero di no per lei, ne abbia un tanti senso, a disposizione. Vabbè, Gabriella, ho capito perfettamente. Gabriella, non ne frega niente alle canzoni. Può capitare, ragazzi, c'è gente che è insensibile alla poesia, insensibile all'arte, gente insensibile alle canzoni di Sanremo. Può accadere. Domani parliamo solo di Sanremo.